La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 6 febbraio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Se ne parla molto nei media tradizionali e se ne parla molto anche sulle riviste di medicina. Stiamo parlando del fumo passivo, dolore ma non gioia dei non fumatori, ma come vedremo anche non gioia dei fumatori stessi. Quest'oggi parleremo di una ricerca apparsa su Environmental Health con uno dei suoi autori, che è Federico Valerio, dell'Istituto Tumori di Genova. Buongiorno dottor Valerio. Buongiorno a voi. Dottor Valerio, nelle 100 parole iniziali che introducono la puntata le voglio chiedere come definirebbe e che cos'è in scienza il fumo passivo. Il fumo passivo è l'esposizione appunto a fumo, nell'eccezione più normale, di persone che non fumano. Quindi la presenza di un fumatore in ufficio, in una stanza di casa, in un bar o in un ristorante provoca un'esposizione al fumo di chi è intorno. Questo viene chiamato fumo passivo, quindi per distinguo dal fumo attivo, e i dati che abbiamo a disposizione ci dimostrano che anche questa esposizione comporta rischi per la salute di chi è esposto, quindi il coniuge, il collega d'ufficio, il commensale del tavolino vicino, ancora di più ovviamente i camerieri e chi serve al bar, sono esposti con possibile aumento del loro rischio di tumori, in particolare dei tumori polmonari. Perfetto, dottor Valerio, adesso accendiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte parleremo espressamente di questa ricerca, mentre nella seconda parte vedremo tutti, o almeno ci proveremo, quei fattori ambientali che, diciamo, non facilitano la vita all'interno della nostra società. Satisfied the pains I'm going through. Dottor Valerio, siamo di nuovo tornati in studio per parlare di fumo passivo e per parlare di una vostra ricerca a firma Maria Teresa Piccardo, Anna Stella e appunto lei, Federico Valerio, in cui si analizzano i rischi del fumo passivo non per i non fumatori, ma per i fumatori stessi. Voi per realizzare questa ricerca avete utilizzato un campione di 30 newsagents, di 30 edicolanti. Li avete analizzati nel corso della loro giornata e poi i risultati che avete avuto quali sono? È uno studio che facemmo in realtà alcuni anni or sono per valutare l'esposizione appunto a cancerogeni, in particolare il benzopirene, che è un cancerogeno che si produce tutte le volte che qualcosa viene bruciato. In questo caso quello che veniva bruciato era il fumo, poteva essere il fumo delle sigarette, perché noi in questo studio non escludemmo i edicolanti fumatori o non fumatori, e anche perché questa cosa è stata interessante nella pubblicazione, in qualche modo poi lo riprenderemo nei risultati di questo studio, e anche l'altra fonte di inquinamento era il traffico veicolare, perché dallo scappamento delle automobili, che appunto dove si brucia benzina, escono fuori questi composti, si chiamano idrocarburi policiclici aromatici, tra cui il benzopirene è quello più pericoloso, quello più studiato a cui è stato riconosciuto un effetto cancerogeno certo anche per l'uomo. E quello di cui sta parlando è il lavoro espressamente del 2004. Quindi quello che noi abbiamo fatto fu quello di misurare l'esposizione giornaliera a questo composto, e questo lo facemmo mettendo praticamente nell'edicola all'inizio del mattino. Gli edicolanti cominciano il lavoro molto presto, immagino che la stessa cosa avvenga da voi a Bologna, insomma, sul far del mattino un nostro addetto piazzò un campionatore portatile all'interno del chiosco, e questo campionatore monitorò regolarmente la qualità dell'aria dentro appunto il chiosco del giornalaio. Finito il turno di lavoro, dopo 12 ore, questi sono i turni nostri a Genova, chi aveva aderito al progetto portava a casa il campionatore, che avrebbe continuato a campionare fino al giorno dopo, quando appunto finito il campionamento i campioni sono stati prelevati e sono stati analizzati nei nostri laboratori, dove appunto abbiamo potuto misurare il benzopirene. Gli edicolanti, proprio per il loro lavoro, perché appunto per 12 ore stanno molto spesso vicino ai punti più trafficati, perché di solito i chiosti, le edicole sono scelte in questo modo, avevano un'elevata esposizione a benzopirene. Ma la cosa anche lì, non con sorpresa, ma chi fumava, più chi aveva dichiarato di fumare, risultava essere esposto anche a una quantità maggiore di benzopirene. Senta, la interrompo un attimo, perché proprio il benzopirene faceva da indicatore e non altri idrocarburi? No, il benzopirene un po' perché, diciamo, per i motivi che ho già spiegato, è una sostanza cancerogena, e quindi a noi interessava monitorarla, anche perché monitoraggi di questo genere si chiamano personali, non sono molto diffusi perché hanno anche una complessità analitica, le quantità che mi vengono prelevate sono molto piccole, ci vogliono sistemi analitici molto, diciamo pure sensibili e sofisticati, e di questo il nostro laboratorio è dotato, quindi abbiamo adottato. D'altro canto il benzopirene, tra l'altro è un tracciante sicuramente di altri cancerogeni, quelli che fanno parte della stessa categoria, ma anche poi delle altre sostanze tossiche che vengono emesse durante le combustioni, quindi dagli ossidi d'azoto, all'anidride carbonica, al benzene, che sicuramente viene prodotto durante anche il fumo di sigarette. Quindi a noi ci interessava usare questo tracciante, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa appunto interessante di questo lavoro, che tra l'altro è stato pubblicato così fine a se stesso, è che sinceramente mi era venuto un dubbio quando comunque si è cominciato a parlare di fumo passivo qualche anno dopo sostanzialmente, e si è anche evidenziato la pericolosità per l'uomo, è che tutti gli studi sul fumo passivo trascuravano i fumatori, e questo era un elemento che aveva suscitato la mia curiosità, la nostra curiosità, per cui andammo a rivedere i dati, e questi dati che abbiamo qui accennato, e perché l'idea che c'era venuta, mi dico noi sappiamo a questo punto in questo studio ci ha permesso di misurare la quantità di benzopirene che un fumatore inala durante il suo lavoro, quanto ne ha inalato fumando? E questa E allora, come dire, abbiamo scelto tra l'altro questa categoria perché per un dato molto interessante, nell'edicola l'edicolante lavora da solo, è un piccolo ambiente praticamente chiuso, specie anche d'inverno, non c'è praticamente riscaldamento, se non in qualche caso qualche stufetta elettrica, e ovviamente non c'erano elementi di disturbo che potevano essere considerati per esempio altri fumatori. Quindi era un campione in questo senso pulito che ci permetteva di fare alcune valutazioni che sono quelle che abbiamo fatto, che abbiamo pubblicato. Cioè in pratica in base al numero di sigarette che loro dichiaravano di avere fumato, e a questo punto abbiamo calcolato quanto, e di cui abbiamo ipotizzato un contenuto di benzopirene in base ai dati di letteratura. Ci sono dati molto recenti che sigaretta per sigaretta, marca per marca, hanno stabilito quanto benzopirene e altri policiclici aromatici, perché questo è sempre il discorso da tenere presente, comunque era presente nel fumo. Abbiamo ipotizzato una determinata quantità di aria inalata giornalmente, abbiamo fatto i conti e abbiamo visto che c'era una buona correlazione lineare tra numero di sigarette dichiarate, fumate e esposizione. E questo ci permetteva di calcolare appunto quant'è l'esposizione a benzopirene aggiuntiva dovuta al fumo passivo per i fumatori. Ripeto, questa è una quasi assoluta novità, perché nessuno ha mai pensato a fare questo conto ritenendo che come dire, il contributo del fumo passivo per un fumatore fosse trascurabile. Non è per niente così. Senta, dottor Valerio, se potessimo fare dei calcoli, o meglio dare dei numeri, che poi sono quelli già presenti all'interno del vostro abstract, qual è la quantità di fumo passivo inalato in più da un fumatore? O meglio, quante sigarette in più fuma un fumatore senza accorgersene? Sì, io ho il conto che cioè, può essere utile, no, al di là di tanti numeri un po' strani, è che nel nostro campione, come dire, l'essere esposti a fumo passivo, quindi come dire fumare dentro il chiostro, quindi una condizione anche se vogliamo un po' estrema, no? Perché è un ambiente chiuso per 12 ore e così via, corrispondeva a fumare circa 3 sigarette in più come quantità di cancerogeni. E la cosa interessante, nel lavoro è stato pubblicato, è stato messo, anche se non abbiamo enfatizzato questo fatto, che a questo punto abbiamo anche potuto distinguere qual era il contributo del fumo passivo e qual era il contributo dell'inquinamento, che peraltro nel 94 a Genova era ancora abbastanza elevato. Ecco, per esempio l'inquinamento urbano in questo caso equivaleva a 1,3 sigarette fumate in più al giorno. Quindi questa è la quota di inquinamento urbano, e la quota da fumo passivo è di 2,6 sigarette in più. Quindi, come voi dichiarate nell'abstract, in realtà la vera domanda da fare non è quante sigarette si è fumate, ma è dove le sigarette sono state fumate e esatto, in che contesto. Esatto, perché questa domanda in tutti gli studi, almeno quelli che noi abbiamo visto, di solito non viene fatta. Dato che poi al fumatore si dice ok, fumando sigarette va incontro a malattie gravi, appunto tumori e così via, il tuo rischio è questo valore deve essere in qualche modo depurato dal fatto se il fumatore è anche un fumatore passivo, quindi sostanzialmente se fuma insieme ad altri, tenendo presente che tra l'altro il fumo è spesso come dire porta a imitazione, insomma uno comincia a fumare e tutti gli altri fumatori attaccano accendere la sigaretta. Se questo avviene in un ambiente chiuso, come potete capire, l'esposizione aumenta molto di più di quella che noi abbiamo eventualmente misurato, perché chiaramente c'è il contributo di tutti gli altri fumatori attivi che stanno fumando appunto in casa, e questo è un problema anche per bambini piccoli, per le persone anziane, ripeto, è anche per lo stesso fumatore, ma anche per poi i colleghi e le altre persone che eventualmente possono fumare tutti insieme. Quindi la nostra, come dire, un po', vabbè, se vogliamo ironicamente, era che, ecco, non so se succede anche da voi, no? Qui praticamente in effetti si sta diffondendo l'abitudine di quei pochi fumatori rimasti di andare a fumare all'aperto, e che ovviamente noi diciamo sicuramente un piccolo contributo a non peggiorare la propria situazione sanitaria, se non per quello stando attento ovviamente a non prendere freddo, perché quando è d'inverno, qui vediamo che qui a noi all'ISTA, che è un istituto dove effettivamente non si fuma, quindi come dire abbiamo bandito, come potete capire, il fumo di sigarette, molti di noi lo fanno, quasi totalità, i pochi che ancora si ostinano a fumare lo fanno fuori, e in questa stagione insomma fa un po' vederli rintizziti a fumarsi la loro sigaretta, insomma vabbè, comunque diciamo meglio così che appunto fumare dentro casa. Senta, come mai secondo lei la letteratura scientifica è piena di lavori sul fumo passivo inalato dai non fumatori, mentre è carente sul fumo passivo inalato dai fumatori stessi? Io penso che sia proprio per un problema mentale, culturale, cioè che sotto viene ritenuto trascurabile questo contributo, in realtà non lo è. Poi certo bisogna fare indagini, come dire, è stato anche criticato in parte il nostro lavoro, no? Perché è chimico, diciamo, quindi non è di tipo biologico, cosa che si poteva fare. Noi abbiamo messo, sì certo, che bisognerà farli, quindi abbiamo dato un suggerimento per dire guardate, non perdete tempo se andate a analizzare anche questo aspetto nel fumo attivo. Peraltro sono usciti anche 2 o 3 lavori dove questo aspetto in qualche modo è stato preso in considerazione, quindi ripeto, la possibilità di esposizione a fumo passivo, e si è visto che il fumatore esposto al proprio fumo passivo effettivamente va incontro a bronchiti o altre malattie respiratorie tendenzialmente più gravi di un fumatore, di un fumatore che invece fuma all'aperto e quindi non è esposto al proprio fumo passivo. Quindi questo mi suggerisce che questo aspetto merita di essere, e tra l'altro a noi interessa perché sostanzialmente abbiamo la netta sensazione che a questo punto si stia sottostimando il ruolo dell'inquinamento urbano ai tumori polmonari. Ancora di qualche giorno fa un intervento di Veronesi che di fatto minimizzava, ecco, ho l'impressione che il professor Veronesi non abbia tutti i dati sotto mano, insomma. Perfetto, dottor Valerio, ci fermiamo per un attimo, poi torneremo in studio e parleremo proprio di quello che ha appena accennato, e cioè del fatto che l'inquinamento ha una qualche relazione con l'ingente insorgenza di tumori nella nostra società. Assolutamente sì. Dottor Valerio, siamo di nuovo tornati in studio per parlare di questi argomenti. Nella prima parte abbiamo visto questa ricerca apparsa su Environmental Health sul fumo passivo, e nella seconda parte invece analizzeremo con lei i vari fattori ambientali responsabili dell'insorgenza dei tumori nella nostra società. Giusto per cominciare, magari conosciamo già, ma quali potrebbero essere questi fattori ambientali se potessimo fare un elenco? Noi conosciamo, come dire, un elenco anche abbastanza lungo di cancerogeni certi per l'uomo. Ora, arrivare a questo tipo di classificazione non è facile, perché bisogna mettere insieme tanti studi, non sempre, come dire, condotti alla perfezione. Comunque questo lavoro è stato condotto ormai da, mi pare, 20 anni dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione, e quindi abbiamo disponibile questo elenco. E in questo elenco dentro c'è, io cito a memoria alcune cose di maggiore interesse, sicuramente l'amianto, l'asbesto, sicuramente il benzene, appunto i policiclici aromatici di cui abbiamo parlato prima, tutta una serie di metalli cosiddetti pesanti, tra cui il cadmio e il cromo, sotto forma in questo caso di cromati. Abbiamo poi tutta una serie di esposizioni, ecco, un dato molto recente interessante un po' per tutti, la formaldeide, perché è uno di quegli inquinanti che maggiore si riscontra sempre di più nelle case piuttosto che all'esterno, anche se all'esterno c'è, dovuto per esempio, emesso sicuramente in grandi quantità nel passato, ma ancora adesso, anche se in quantità molto ridotta, per esempio dai materiali truciolati, dove la formaldeide viene utilizzata come, appunto, come tra i componenti per tenere come collante per questo tipo di materiali. Quindi ecco, quello che succede oggi, che sostanzialmente ci stiamo un po' lasciando alle spalle, e speriamo che sia vero così, l'inquinamento negli ambienti di lavoro, che è stato pesantissimo, che veramente ha falcidiato classi di lavoratori che sono stati mandati, come dire, allo sbaraglio. Ricordo ancora un ragazzo, che sto parlando degli anni 80, che lavorava a scaricare amianto da una nave, e l'unica sua protezione era un fazzoletto, e lui, detto peraltro di napoletano di origini, dice: tu tenga maschera, e quindi stia tranquillo, ecco. Ed è veramente agghiacciante. E oggi queste cose mi auguro che non succedano più, però abbiamo quell'altro problema, un'esposizione diffusa di tutta la popolazione a questi cancerogeni, molti di questi che ho elencato, e li ricordiamo: il benzene, il benzopirene, in parte la formaldeide, in qualche modo è legata all'inquinamento diretto o indiretto da traffico. Quindi abbiamo milioni di persone, in particolare i bambini, e addirittura, insomma, esposizioni che sono anche, come dire, avvengono attraverso la madre anche prima al momento del concepimento. Insomma, la mamma respira, mangia sostanze cancerogene pericolose, e queste potrebbero avere qualcosa a che fare con lo sviluppo del feto e poi del bambino quando questo nascerà. Insomma, questi sono i problemi che abbiamo da affrontare. Compito, appunto, dell'istituto, che tra l'altro è rimasto uno dei pochi istituti, forse addirittura l'unico, che si occupa della cosiddetta prevenzione primaria. Io, tra l'altro, come dico, sono un chimico pur operando insieme ad altri colleghi, appunto, non medici, pur operando in un ambiente, come dire, prevalentemente medico, insomma, come l'istituto, dove facciamo anche terapia, cura e ricerca sulle terapie e sulla cura, perché noi ci preoccupiamo insieme ad altri nel nostro dipartimento di identificare la presenza di cancerogeni nell'ambiente. Il mio compito specifico è identificare le fonti e dare poi agli amministratori e ai decisori politici le indicazioni mirate per affrontare in modo corretto il problema, cioè qual è la fonte inquinante principale, qual è il sistema per ridurre questa emissione, vediamo se questa emissione si è effettivamente ridotta. Dottor Valerio, l'aneddoto che lei ha citato prima del ragazzo napoletano, che mi ha fatto molto sorridere, mi ricorda anche il problema della nostra scarsa attenzione verso i pericoli che ci circondano. Per esempio, il fumo nero lo vediamo, esiste e ci fa male. Le nanoparticelle non le vediamo, non esistono e quindi non ci fanno male. Eppure, dal principio di Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Io sono arrivato a delle conclusioni, penso supportate in modo adeguato, che noi non siamo assolutamente obbligati a incenerire i nostri rifiuti per chiudere il cosiddetto ciclo dei rifiuti. Questo perché l'incenerimento, ancorché condotto con macchine che non ho dubbio a riconoscere molto più evolute, meno inquinanti, diciamo così, di quelle che potevano essere gli inceneritori della precedente generazione, come dire, però non ha eliminato il problema, anzi secondo me lo ha aggravato, perché il problema è, sto parlando dei rifiuti urbani, il cui problema igienico-sanitario è semplicemente, e penso che non sia possibile smentire questa mia affermazione, cioè l'unico problema igienico-sanitario dei nostri rifiuti è quello legato agli scarti di cucina, cioè il cosiddetto materiale putrescibile, che è quello che può comportare, che è l'unica frazione che può comportare problemi igienico sanitari se non giustamente corretti, no? Attrarre mosche e insetti, altri animali, quindi diffondere eventualmente malattie. Questo era l'unico problema che ci poteva essere nell'emergenza napoletana, tanto per tornare a un episodio che stiamo cercando di dimenticare, ma che insomma è interessante continuare a studiarne, no, la dinamica e l'evoluzione. Non credo che sia finita davvero come storia. E che a questo punto plastica, vetro, metalli sono inerti e come tali non creano problemi. Il problema ovviamente di non farli accumulare lungo la strada e quindi quello di raccoglierle in modo differenziato per avviarle al riciclo. Per quanto riguarda la frazione appunto cosiddetta putrescibile, la soluzione ottimale, peraltro nota, stranota da tempo, è quella del compostaggio o comunque dei trattamenti biologici, che hanno la virtù di trasformare in pochi giorni, grazie a attività microbica, quello che era appunto un qualcosa di pericoloso, potenzialmente puzzolente, in qualche altra cosa, che nel caso del compostaggio è proprio un terriccio che poi alla fine profuma di bosco, e non è uno slogan, perché è proprio esattamente così. Perché durante il compostaggio si sviluppa per naturalmente, diciamo pure così, una temperatura abbastanza alta, andiamo intorno ai 60-70 gradi, che di fatto uccide, perché così è, tutta la flora microbica pericolosa, come dire, lasciando vivere invece la flora utile anche per l'ulteriore utilizzazione agricola del compost. Ecco, se si permette il confronto, allora per esempio un impianto di compostaggio con un inceneritore non c'è partita, l'inceneritore non solo non elimina, come dire, non ha rifiuti zero, perché poi dal 20 al 30% di quello che entra nel inceneritore ne esce come ceneri che sono tutt'altro che innocue, come peraltro si vuol credere o far credere, ma immette in atmosfera sostanze tossiche che non erano presenti nei rifiuti e che l'incenerimento stesso ha prodotto. Questo nonostante, come dire, tutti gli abbattimenti, per esempio gli ossidi d'azoto non sono presenti nei rifiuti, ma sono sicuramente, escono sicuramente dagli inceneritori dell'ultimissima generazione, e la stessa cosa si può dire per le diossine che ci sono, ma se si fanno i bilanci per la fine questo sono già presenti nei rifiuti per la contaminazione ambientale peraltro che c'è. Ma se si fa poi nei bilanci, quando sono stati fatti, si vede che la quantità totale di diossine che produce un inceneritore spesso è maggiore di quella che della diossina che entra nell'inceneritore appunto come contaminanti, per esempio dei nostri scarti alimentari. Senta, siamo partiti dal fumo che è una scelta personale e nostra ed è cancerogena. Poi siamo passati, diciamo, ai fattori ambientali che non sono scelte nostre ma sono cancerogene lo stesso. Possiamo traslare Battiato dicendo che non servono tranquillanti o terapie, ma ci vuole semplicemente un'altra vita per avere una situazione ambientale migliore? Beh, non so se la canzone di Battiato non la conosco, non ho fatto da intendesse per altra vita. Sicuramente ci sono possibili altri scenari rispetto a quelli che ci, come dire, ci fanno ritenere essere ineludibili o comunque segni di progresso. La storia dell'inceneritore ne è una, l'altra della mobilità ne è un'altra, no? Di come ci muoviamo. Anche quella è un'altra battaglia che stiamo cercando di fare, peraltro stiamo anche verificando, per esempio possiamo dirlo, mi fa piacere anche dirlo, le marmitte catalitiche funzionano, perché noi abbiamo riscontrato nella nostra città un netto calo dell'inquinamento da traffico, appunto i policiclici aromatici, anche questo è un dato che abbiamo pubblicato recentemente. Ecco, però diciamo a questo punto le marmitte invecchiano, hanno rendimenti sempre più bassi, sempre peggiori, e quindi bisogna fare qualche altra cosa. Ecco, questa altra cosa, il mondo che verrà, se posso permettere, potrebbe essere anche un mondo in cui appunto quelli che vengono chiamati rifiuti, che a me piace forse chiamare materiali post consumo, perché sicuramente hanno un riutilizzo, come dire, passare al riciclo comporta decisamente maggiori risparmi energetici e minore inquinamento, e anche muoversi su mezzi collettivi a trazione elettrica, perché magari alimentate a sua loro volta da fonti di energia rinnovabile, non è per niente una cosa futuribile, perché ormai è un fatto che fuori da questo paese, sto parlando dell'Italia, è quasi una cosa normale, no? Impianti eolici, fotovoltaici, che insomma in Germania sono molto più numerosi che da noi, e mi sembra, mi viene da ridere, insomma. Vabbè, visto che siamo il paese del sole, ecco, questo nuovo futuro penso che sia possibile, e noi, diciamo, per la parte nostra, con la nostra attività di istituto, stiamo cercando di dare una mano, di supporto, e stiamo cercando ovviamente chi, decisori politici, come dicevo prima, che queste cose le capiscano. A Genova qualche riscontro l'abbiamo avuto, insomma, sul livello nazionale è un pochino più difficile, ma ci auguriamo che appunto chi deve decidere possa anche decidere in base agli elementi scientifici che il nostro istituto è in grado di fornirgli. Dottor Valerio, la ringrazio intanto per essersi prestato a rispondere alle nostre domande. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, dottor Valerio. Grazie a voi, grazie a voi.